via, fuggir mi lascia. Ti serve il tuo cuore, ti serve il tuo cuore. Addio, addio, cruda bacia, pietà del mio dolore, pietà, pietà. Al mio duol, al mio spavento, ti conforto un solo accento. No. Per tuo padre ti ho concesso, per la morte a cui son presto. No. Pietà te ne scongiuro, per l'amor del lieti. Oh!